compagno, vero? Alla compagna che è intervenuta. Vorrei poterle chiedere di, dentro un impegno complessivo di tutti noi, anche eventualmente di rispondere a delle sue specifiche richieste nell'organizzazione della lotta, non di rinunciare, ma di sospendere la decisione dello sciopero della fame della sete, in qualche modo contare sull'unità e la solidarietà di un fondo di lotta che qui si impegna. Io capisco benissimo, ma vorrei che insomma tutte le energie di questa lotta fossero preservate, perché quella che avete cominciato con un risultato importante è una lotta difficile, lo sapete meglio di me, e non breve periodo. Probabilmente sarebbe facile anche qui cavarsela con un po' di sviluppo, ma io vorrei provare a rispondere seriamente, se sono capace, alla sollecitazione che da ultimo ha fatto menzione, cioè come si fa a passare da un successo e da una vittoria parziale ad un successo e una vittoria, non dico generale, ma più generale. Questo è il problema che abbiamo di fronte a tutti, tutti quelli che sono interessati al cambiamento. E io vorrei dire che naturalmente tutti noi siamo interessati a cacciare il più presto possibile Berlusconi, è una necessità per il Paese, ma questa assoluta necessità per il Paese o riusciamo a incardinarla fin d'ora su un rapporto tra i movimenti e la politica e su contenuti che siano in grado di avviare un cambiamento profondo a questo Paese, oppure la tentazione di, cacciato Berlusconi, fare delle politiche moderate è molto forte, perché loro, intesi come i nostri avversari, hanno una reale potenza di intervento che non è solo legata al sistema istituzionale, ma al coordinamento delle loro politiche. Io faccio solo un esempio, non si parlava dell'Europa, questa Europa qui, non l'altra Europa che guarda qui, questa Europa qui, quella del trattato costituzionale, delle direttive, è un potentissimo aiuto alle politiche neoliberiste oggi. Facciamo un esempio semplice: i metalmeccanici presentano una piattaforma per il contratto. In questa piattaforma per il contratto c'è una cosa importante: la democrazia, la partecipazione dei lavoratori, e ci sono delle rivendicazioni. Quando il governo non rinnova il contratto agli statali, lo fa per gli statali, ma il governo, la Confindustria, lo fanno ancora di più per mandare un messaggio ai metalmeccanici di per voi non c'è più. E il patronato metalmeccanico riceve la piattaforma e dice al sindacato: il contratto non si rinnova, perché le vostre richieste sono troppo esose, l'economia è un disastro, noi non possiamo venire incontro al lavoro. A meno che voi, prima di trattare sui soldi, soldi che servirebbero soltanto a ritornare al potere d'acquisto che avevano all'inizio del vecchio contratto di lavoratori metalmeccanici, non ci guadagnerebbero più, tornerebbero esattamente al potere d'acquisto che avevano 3 anni fa, prima dell'attacco drammatico al potere d'acquisto dei salari di pensione. Per avere questo, dice il padrone, dovete darmi mano libera sugli orari, cioè padroni non devono più avere un orario giornaliero, un orario settimanale, un orario mensile, c'è un orario annuale e poi lo regoliamo noi padroni come vogliamo. Se un mese abbiamo bisogno di farti lavorare, lavori fino a 65 ore alla settimana, se l'altro mese non ti serve, stai a casa. Cosa accade? Che puntualmente il Parlamento europeo si riunisce e vota a maggioranza una direttiva che cosa fa? Che dice che Stato per Stato si può flessibilizzare l'orario lavorativo in modo da fissarlo annuo, esattamente come nella richiesta della Federmeccanica. La Federmeccanica, cioè i padroni, sono più forti dopo questa roba, e noi siamo più deboli. Allora, quando i francesi stanno discutendo contro il trattato, in realtà ci danno una mano, solo che è una mano lontana. Questa questione del rapporto, noi facciamo una cosa qui, che il rapporto c'è con una cosa che fa un'altra un'altra parte, per noi è assolutamente fondamentale. Voi, secondo me, proponete una costruzione delle lotte che interessa tutti. Se capisco bene, qual è questa costruzione delle lotte? C'è un problema generale, sì, è il diritto all'abitazione, un problema generale, ce l'hanno tutti. Come si fa a conquistare questo diritto generale? C'è un modo tradizionale che dice facciamo la legge, andiamo al governo, e naturalmente se uno va al governo per fare una buona legge è meglio, ma se non ce l'hai, è inutile che io venga qui a raccontarvi la favola che chiediamo il decreto per il blocco, perché tanto non ce l'abbiamo in uno in Parlamento, puoi fare quello che vuoi, lì non succede. Allora cosa accade? Che io non posso fare niente? No, io, inteso come politica, se sono buona, faccio una cosa, metto in rapporto tra di loro quelli che lottano e quelli che possono lottare. In realtà l'esperienza che qui è risultata vincente è l'esperienza di una forma di lotta, di un punto di applicazione e di una linea. È sempre stato così? No. Io vedo dalla storia che ha visto con la lotta sulla casa nascere la riscossa operaia studentesca. Torino comincia il ciclo che si chiama del 68-69 del Biennio Rosso con uno sciopero e una manifestazione travolgente in corso traiano, gigantesca. Naturalmente era uno sciopero di operai, e quindi cosa aveva in mente? Non il diritto della casa come stiamo discutendo da qui adesso, aveva in mente il diritto della casa come ecocanone, come rivendicazione di abbassare i fitti, perché erano tutti in affitto, lo volete dire stesso. Abbassare gli affitti e cambiare la proprietà, perché capivano benissimo quei lavoratori che se non cambiavi la propria proprietà, tu hai un bel dire di collegare gli affitti al salario dei lavoratori, ma sai bene che non fai su quel punto lì, a meno che ottieni delle altre cose, e quello si batteva per la proprietà pubblica, in parte, per le proprietà indivise, aiutate dall'intervento pubblico, e per l'ecocanone. Quella è stata una grande storia, dico solo che poteva farsi così perché il centro della mobilitazione era la questione dei lavoratori, del salario della loro casa. Oggi il problema continua a esserci, ma quello esplosivo è quello che indicate voi, è quello degli sfratti. Cioè è oggi più che il problema dell'affitto è il problema che ti cacciano fuori. E che essere cacciati fuori sono i poveri cristi, sempre più poveri cristi, perché quelli sono quelli più esclusi. E non vale neanche il ragionamento che in genere fanno, a dire che riguarda solo una minoranza esigua. Perché, primo, le statistiche sapete bene voi, sono la media del pollo, in Italia l'80% della popolazione ha la casa in proprietà. Sì, va bene, sì. Ma, nelle città fino a 500.000 abitanti quelli in affitto passano al 25%, e nelle aree metropolitane al 35%, e nelle aree urbane degradate metà e metà, metà in proprietà e metà lotta. Dunque ci sono aree gigantesche del paese dove c'è la grande concentrazione urbana in cui non è vero, la media del polo salta, metà sono in affitto e metà in proprietà. In quelli che sono in affitto cosa è successo? Prendiamo gli sfratti. 15 anni fa gli sfratti come avvenivano? Essenzialmente con una richiesta da parte del proprietario di tornare in uso della proprietà per necessità, ciò che c'entrava dentro noi era un problema, ma era questo l'elemento prevalente. Dopo 10 anni cosa diventa? Fine locazione. Dopo 10 anni non sono più prevalenti quelli che lo chiedono per necessità, lo chiedono per fine locazione, cioè lo chiedono per vendere e fare soldi, e spesso con gli ipotesi che qui venivano distrutti. Non basta neanche, perché adesso non è più né per la necessità né per fine locazione quello maggiore, ma è per la morosità, perché la gente non c'ha i soldi per pagare l'affitto e viene cacciata fuori. Dunque è un problema sociale drammatico quello che viene posto e che voi raccogliete. Non è un elemento periferico, è un elemento importante. Secondo, come viene affrontato, viene affrontato diversamente dai miei amici del 68-69, costruendo la lotta nel punto di esclusione. Cioè, lì mi cacciano fuori e io per il mio. Questa lotta, a me pare di capire, ha però una cosa straordinaria. La prima è che non è una manifestazione di protesta disperata. Cioè, si può quello che Dio dice. Cioè, no, ci sono state anche volte, no, si può quello che Dio dice. La seconda è che, l'hai detto tu, costituisce un elemento con cui ti cambi a governare davvero. Cioè, cambi l'idea del governo, che il governo non è solo quello che sta in consiglio comunale e sindaco, ma sei anche tu con questo processo di partecipazione. Quindi tu ci metti sopra una lotta per vincere. E mentre costruisci questa vittoria, organizzi diversamente la politica. Tanto è vero che, sebbene in grazie a un intervento anche utile della politica, a Roma vinci rispetto allo sfratto a Castrenza, ma contemporaneamente avvii un percorso che sperabilmente ti porta a una delibera dell'amministrazione comunale di Roma, come tu dicevi, non risolve il problema, ma costruisce la più avanzata esperienza d'Italia su questo punto, e l'hai ottenuto con quella lotta lì, con quel percorso. A questo punto insorge la domanda di non so, sì, ma come sta appunto da Bologna, ma a Torino, ma a Napoli, ma a Venezia, e nasce il problema che siccome non dappertutto hai questo livello di movimento, tu devi proporti un'estensione sulla base del fatto che gli dai anche una mano, non tu, non, tu noi, tu noi la politica che interessa per questa cosa, cioè come facciamo a dargli una mano, e nasce qui il problema di che tipo di proposte anche avanziate. Io sono totalmente d'accordo con quello che ci riguarda. Per tutte le forze della sinistra radicale, la richiesta che qui è stata avanzata di nuovo nei confronti dell'amministrazione locale, di governo locale, che sono le principali interlocutori di questo movimento, la richiesta, visto che non riusciamo con il governo di ottenere ancora il blocco degli sparti, al fine di riaprire la partita per il blocco generale degli sparti, di ottenere che tutti i comuni di progressisti si pronuncino per bloccare l'attuazione degli sparti. Un comune che ti ha già detto di sì, quell'altro che gli chiedi di dire, costruiamo un'iniziativa anche articolata in questa direzione. E su queste case ragioniamo, come diceva anche il mio compagno, sono abbastanza sbagliate. Vi la faccio breve, secondo me gli elementi di questa politica della casa sono essenzialmente tre. Uno, una protezione sociale per quelli che hanno basso reddito. Una protezione per loro, ad hoc. Adesso faccio il minimalista, io non credo che noi possiamo raggiungere un obiettivo di fitto legato alla corruzione, io non credo, da solo. Io penso che si possa arrivare attraverso un'operazione complessa. Il primo dice, tu stai sotto questo livello, tu hai diritto alla casa. Hai diritto alla casa, perché te la do io pubblico, te lo do io pubblico, te lo do con una requisizione, te lo do con la diritto pubblica, te lo do con la diritto concertata, te lo do perché è un tuo diritto per una fascia della popolazione. Secondo, affinché non sia una politica semplicemente caritatevole, riapro la questione anche come calmiere dei finti dell'edilizia pubblica. Guardate, è una cosa realistica. L'Italia è il paese europeo che ha ormai la minore edilizia pubblica d'Europa. Stavamo meglio con il piano Fanfani da questo punto di vista di quanto siamo adesso. E sarebbe una grande rivendicazione chiedere un piano Fanfani per le diritti pubbliche in Italia. Faccio notare che non è solo un discorso quantitativo, è anche un'idea, adesso non mi rubo tempo, se voglio evitare. A Parigi, quelli che si chiamano gli alloggi sociali, danno luogo delle esperienze importanti con cui lo Stato costruisce o organizza delle abitazioni e ne definisce la composizione sociale che ci va dentro. Per esempio, una quota parte è di gente povera, di basso reddito, un terzo. Un terzo è, attenzione, di migranti. E un terzo invece sono affittate anche ad affitti alti, in modo da evitare che quella casa diventi in qualche misura un ghetto della politica che poi fanno le amministrazioni. Cioè compone una mescolanza che produce anche una nuova idea della socialità e dell'abitante. Quindi una diritta pubblica è un punto di passaggio fondamentale, e in terzo luogo io penso che si possa ragionare con un'integrazione pubblica per determinare appunto l'attivo sociale, con un'integrazione pubblica. Per far questo finito bisogna rimettere le mani sul fisco. Ma anche qui, facendo andare, guardate, la lotta all'evasione di troppo facile, no? Troppo facile non si fa, ma come è troppo facile? Non si fa. Tu dici una cosa semplicistica, in Italia c'è una concentrazione di evasione fiscale in cui c'entra la casa, perché il fatto che si è potuto stabilire per tanto tempo che il valore della casa è un valore catastale, lo sapete tutti, fa sì che una barca di soldi vengono nascosti, perché uno va con le sue valigette a comprare la casa e paga un prezzo totalmente diverso da quello che viene denunciato, e così evade per una volta. Possibilità di conclusione chiede la difesa del fronte di lotta. Io quindi penso che bisogna difendere l'agibilità del conflitto sociale della lotta per oggi e per domani, non solo per oggi e per domani, per adesso che c'è Berlusconi e per quando il rendimento non sarà. Questa difesa richiede anche qua un intervento complesso, quello della difesa spazio per spazio, punto per punto, con l'intervento dei parlamentari, dei consiglieri, con la denuncia di una situazione inaudita come quella di Bologna, esattamente sapendo fare una campagna a Bologna come l'hai fatta a Cosenza, perché appunto sei di nuovo di fronte ad un pretesto per organizzare una precipitazione di un intervento legislativo regressivo che fa dell'associazione a delinquere un punto che viene organizzato sistematicamente e che in realtà nasconde la denuncia di un delitto di opinione. Siccome non sono in grado più di accusarti di un delitto di opinione, cioè di contrastare con le tue idee le politiche delle guardie, ti accusano di associazione tra delinque. Questa cosa va contestata. La propria devi fare una difesa puntiposa e avremo una discussione sul codice penale. Perché poi puoi giustamente denunciare il comportamento di quel magistrato, quello lì, quando dice addirittura che lui è d'accordo con il potere politico, cosa inammissibile. Però tu devi anche avere un'iniziativa politica che consente al magistrato di riguadagnare qualche spazio del suo vita. Faccio notare, è sempre stato così. Le lotte sono anche uno strumento poderoso a modificare il codice penale e il diritto. Perché voi sapete benissimo che dei reati che adesso vengono considerati tali, un tempo non lo erano, e viceversa, che per molto tempo è potuto fare l'occupazione di suoli privati davanti alle fabbriche perché aveva ripassato con lo stesso diritto dei lavoratori e che prima non potevi farlo, che il picchetto davanti alla fabbrica per un lungo periodo era oggetto di denunce e venivi fermato e venivi arrestato, e poi invece è stata trasformata nel diritto del lavoro in muraglia umana e quindi in qualche misura permessa. Quindi anche qui c'è un problema. Se tu stai facendo una lotta di occupazione di una casa per difendere un diritto di una donna, di un uomo che altrimenti non avrebbe la possibilità di stare sotto un tetto, io credo che qui dobbiamo rivendicare la stessa legittimità del picchetto, il presidio per difendere la casa. Puoi disobbedire, ma nella disobbedienza puntava che la legge riconosce la costanza di questo momento. Questo che voi avete detto mi sembra davvero un contributo importante per tutti, e io vorrei chiudere su un punto, diciamo, che vale per tutte le persone, affinché io possa rispondere alle compagne in termini di siamo in grado di accogliere la tua richiesta e difenderti. Noi insieme, ognuno dalla sua parte, ma noi insieme dobbiamo contribuire a riformare il rapporto tra politica e movimento, a migliorare questo rapporto. L'esperienza che si sta facendo a Roma è, secondo me, un'esperienza, lo dico proprio così, esemplare. Lotta, radicale, consenso, partecipazione, coinvolgimento delle forze politiche interessate e delle istituzioni. E si rivela ancora una volta che il municipio, il comune, è oggi una grande potenzialità. In ogni caso è un punto di applicazione fondamentale. Passare qui è un elemento fondamentale per passare da un altro comune, ma anche più in generale. Questa cosa propone anche una modifica delle forme di rappresentanza, di riorganizzazione della istituzione. Perché tu ti cambi davvero a governare con la tua azione, devi poter essere interno al processo reale di governo della città.